GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12:16, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro, una domenica di bel tempo con temperature miti ben al di sopra della media in montagna, come vedremo. Situazione favorevole alle tante iniziative all'aperto e alle manifestazioni che introducono al periodo festivo. Faremo il punto sulle presenze turistiche, sulle presenze nei musei, ma torneremo anche sui forti disagi che devono sopportare ancora i cittadini danneggiati dal maltempo di 2 settimane fa, e ascolteremo in particolare una vicenda d'Aversa, frazione di Romance. Ampio spazio allo sport e soprattutto alla scherma, con le imprese delle friulane Michela Battiston e Giulia Rizzi, entrambe vittoriose in Coppa del Mondo. 2 settimane fa la disastrosa ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il Cormonese e le zone orientali del Friuli. A Brazzano, dove ci sono state 2 vittime, ancora fiato sospeso per i residenti nell'area interessata dalla frana, ma anche a Versa, che il 17 novembre è rimasta allagata, c'è ancora incertezza per alcuni cittadini le cui abitazioni sono state particolarmente danneggiate. È il caso di un disabile motorio e visivo per il quale arriva ora un pressante appello. Siamo davanti alla casa di Mauro Delpin, 60 anni, disabile motorio e visivo, in sostanza è costretto su una sedia a rotelle e non vede quasi del tutto, disabile e anche alluvionato, salvato dai vigili del fuoco il giorno dell'alluvione di Versa. E lui da 3 settimane sta ancora attendendo, sta ancora cercando una sistemazione adatta alla sua condizione, che è del tutto particolare. Di qui l'idea di una delle persone che lo segue da vicino, la signora Alessandra Fusaro, di lanciare un appello non solo alle istituzioni pubbliche ma anche ai privati affinché si trovi una struttura adatta a lui. Che tipo di struttura necessita, Mauro? Allora, assolutamente una cosa semplicissima: noi abbiamo solo bisogno di un bagno leggermente ampio dove possa passare la sedia a rotelle, con magari una doccia a disposizione, perché Mauro purtroppo da 3 settimane non si fa una doccia, lo laviamo il più dignitosamente possibile a letto, ma c'è una situazione veramente pesante. Mauro è ospitato in un albergo di Gradisca di Sonzo in questo momento, e sicuramente i tempi del ritorno a casa non sono brevissimi, perché qui c'è ancora tutta la muffa e tutta l'umidità che viene fuori dalle pareti. Sì, assolutamente, abbiamo i pavimenti da rifare perché era tutto di legno, quindi sono tutte le malte, i pavimenti, qua non c'è più niente, praticamente tutto quello che riguarda la zona giorno della vita quotidiana di tutti i giorni non esiste più. Versa Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito dell'alluvione di 3 settimane fa, uno spettacolo di beneficenza dal titolo Together Show, un sorriso per aiutare, sarà in scena questa sera al Teatro Comunale di Cormons, sul palcoscenico i Papu, l'organizzazione è di artisti associati che ha voluto essere così vicina alle comunità colpite da frane e allagamenti. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinata ai comuni di Cormons e Romans, l'inizio alle 20:30. Uno sguardo alla situazione del tempo com'è adesso: abbiamo cielo sereno su pianure e costa, più nuvoloso sulle zone montane. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi e 5 decimi, a Udine 13, a Gorizia 12 e 5, a Pordenone 11 e 5. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 6 gradi, a Tarvisio 1 grado e 5 decimi, a Forni di Sopra 9, sul Piancavallo 7 e 5 decimi, a Sappada meno 1, sullo Zoncolan 4 gradi, sul Lussari 1 grado positivo, sulla costa a grado 13, a Lignano 10. Le previsioni a cura dell'ARPA. Per il resto della giornata di oggi avremo cielo in prevalenza variabile, ma anche schiarite durante il corso della giornata, zero termico a 2200 metri circa. Mercatini natalizi, presepi, luminari e shopping animano la prima domenica di dicembre. Numerosi i turisti nelle città e buono l'andamento delle prenotazioni. Abbiamo fatto il punto a Trieste con Maurizio Giudici di Federalberghi. Come sta andando questo ponte lungo dell'Immacolata, questo lungo weekend dell'Immacolata dal punto di vista del turismo? Sta andando decisamente bene, complice anche il bel tempo che una trattoria da un plus in più. Gli alberghi oggi sono saturi più o meno al 90%, veniamo fuori da un sabato al completo, basta girarsi e si vedono le nostre guide che traghettano gruppi di turisti in giro per la città, per cui sicuramente un weekend all'insegna del sold out, con i mercatini di Natale, con tutte le iniziative che ci sono in questo periodo. Turisti che arrivano da dove? Turisti arrivano tanti dall'Italia, dalla nostra Austria, dalla Croazia, sempre dai paesi dell'est Europa. Continua il trend positivo, pensate che al 30 settembre di quest'anno Istat ha rilasciato i dati di presenza nella città di Trieste ed è rispetto al 2024 un aumento del 12,8. Questo trend continua anche nel mese di dicembre sicuramente, adesso come dicevamo weekend pieno, avremo una minima flessione fino all'inizio di Natale e poi una ripresa per arrivare al sold out certo di Capodanno il 31/12. E poi ci sono anche i turisti che arrivano dalla regione. Abbiamo i turisti della regione, abbiamo i pendolari che sicuramente aumentano la percezione di presenza in città, registriamo un buon flusso anche dell'iniziativa della regione con il Turesta che porta a Trieste cittadini del Friuli Venezia Giulia. Quindi un Natale che si presenta assolutamente bene e rispecchia quelle che poi sono le aspettative degli investimenti che si stanno facendo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E nella prima domenica del mese sono numerosi i musei in cui l'ingresso è gratuito, offerta culturale sempre molto ricca, quella regionale, a partire dalla mostra che ad Aquileia propone i bronzi di San Casciano. A Trieste molto frequentato il Museo della Letteratura. Domenica al museo anche a Trieste, l'iniziativa del Ministero della Cultura che apre gratuitamente ogni prima domenica del mese i luoghi della cultura. Con l'inizio del periodo natalizio, tante le presenze turistiche in città e tante le richieste all'ufficio turistico in Piazza Unità. La classica cartina è d'obbligo, ma ci si affida anche la tecnologia. Dove siete diretti? E alla chiesa di San Nicolò se la troviamo. San Nicola. Però, siccome voi siete del posto, adesso ci portate. Le informazioni si chiedono anche al bar aperti la mattina presto. Chi sono quelli che chiedono più informazioni in generale? Tanti italiani, venendo tanti dal sud Italia. In ascesa le presenze a Lezzi, il museo letterario di Piazza Ortis, la storia moderna della città a portata di libro e di un'esperienza immersiva. 120 le visite nelle singole giornate del fine settimana. Qualche visita al museo particolare? Allora, il museo qui di fianco e in giro al castello di Miramare. Ad attrarre sempre un grande classico cittadino, il museo Revoltella. Anche l'occasione di vedere qualche museo un po' più particolare, locale, è molto piacevole. Non è gratuita la mostra su Tolkien al Salone degli Incanti, ma è gettonatissima. 600 le presenze in media nei weekend, sia italiane che estere. Siamo appassionati lettori e amiamo l'ambientazione, lo scrittore, tutto quello che c'è attorno a Tolkien. Quindi è stata un'occasione comunque che volevamo sfruttare collegandola anche alla visita a Trieste. We are just here for today. Siamo da Graz in visita per due giorni, sono fan di Tolkien e la mostra è interessantissima. It's quite interesting actually. Visita gratuita anche al castello di San Giusto, con visita guidata a pagamento. Anche nella giornata dell'Immacolata tutti i civici musei di Trieste saranno regolarmente aperti con orari e tariffe ordinarie. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora lo sport, la Coppa del Mondo di scherma parte nel migliore dei modi per le nostre atlete con il doppio successo di Michela Battiston nella sciabola e Giulia Rizzi nella spada. Battiston trionfa nel Grand Prix di Orléans e il primo oro in Coppa del Mondo per la sciabolatrice di Tor Viscosa. Sulla pedana francese la friulana dell'aeronautica militare ha eliminato il primo turno la tedesca Stemper, poi le compagne di nazionale Martina Criscio, battuta 15-11, e Claudia Rotili, superata 15-14. L'ultima stoccata è stata poi decisiva nel quarto di finale contro la bulgara Ilieva, un 15-14 che ha mandato Battiston nella semifinale tutta italiana contro Marina Viale. Qui Michela si è imposta 15-8 e nell'ultimo atto la friulana ha imposto tutta la sua voglia di vincere, riprendendo l'ungherese Spitz dal 12-14 e battendola con una parata e risposta alla stoccata decisiva. A Vancouver in Canada Giulia Rizzi si è invece imposta nella prima prova della Coppa del Mondo di spada per l'atleta udinese oro olimpico a Parigi. Si tratta della quarta vittoria della carriera in Coppa. Dopo aver superato 5 avversari, Rizzi in finale ha battuto la francese Candace Amy 13-12 all'ultima stoccata. E ora il basket di A1, nel pomeriggio tocca all'APU, al Carnera contro Napoli, mentre la Pallacanestro Trieste torna a mani vuote da Sassari. Ormai non è nemmeno una sorpresa, la solita Trieste leggera, la trasferta accade anche a Sassari, squadra rinnovata sul mercato ma pur sempre tra le peggiori di questi primi mesi di campionato, copione non dissimile dalle altre disfatte, senza Ross e Brooks, l'assenza del lungo naturalizzato perdura da due mesi ed è ormai un mistero, i biancorossi sono gli stessi di prima della pausa, quelli crollati a Cremona risorti con Galatasaray e Milano. Manca però la concentrazione, anche stavolta 30 punti subiti nel primo quarto, i sardi sono l'ottava squadra in 10 giornate a segnarne più di 27 nei primi 10 minuti alla difesa scolapasta di Gonzales. Nel secondo periodo il divario torna a quota 13, a salvare un po' le apparenze ci pensa Toscano Henderson con due triple inventate dal nulla. I biancorossi tornano a meno 3 con tripla di Ramsey dall'angolo in avvio di ripresa, ma è un fuoco di paglia. Ogni volta che servirebbe una giocata difensiva, Sassari invece banchetta con Johnson, Marshall e Bui. Il divario è così sempre attorno ai 10 punti. Un altro canestro di Ramsey dice che però c'è ancora partita, meno 5 a 4 minuti dalla fine, poi però arrivano altre palle perse evitabili e Marshall e McGlynn puniscono. Ci sarebbe ancora una chance sul meno 4 a meno di un minuto dalla fine, ma arriva ancora un'altra palla regalata, la 18esima a fronte di soli 5 recuperi. 85-80 per Sassari, 22 punti per Ramsey, ma da Sissoko e dal reparto italiani arriva davvero poco. In classifica Trieste al 50% di vittorie, le aspettative erano altre. Torna in campo questo pomeriggio invece la Udine alle 16 al Carnera contro Napoli, il primo match dell'era post-Ichi, è già una sfida salvezza. Esordio sicuro per il nuovo arrivato Criston. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 12:27, oggi la prossima edizione è quella delle 18:30. Grazie per averci seguito e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.